Letture di Radio 24. Mirtilli a colazione, romanzo d'esordio di Meg Mitchell Moore, ha per protagonisti Ginny e William, un'anziana coppia del Vermont la cui vita viene sconvolta quando, per uno strano scherzo del destino, si trovano ad ospitare i tre figli ormai adulti. Lillian con i suoi due figli, Stephen con la moglie che proprio in quell'occasione scopre di aspettare un bambino e Rachel, la figlia più piccola. Avrebbero dovuto fermarsi solo per qualche giorno, ma il loro soggiorno si protrae più del previsto. E tra pianti di bimbi e disordine ovunque, i due anziani coniugi rivivono situazioni che pensavano ormai di aver dimenticato. «Quanto pensi che resteranno?» chiese Ginny a William quella sera. Si stavano svestendo per andare a dormire. Intorno a loro regnava il silenzio, finalmente. Erano quasi le 11, tutte le luci della casa erano spente, ma dal lucernario della loro camera da letto si vedeva una bella luna piena. «Non lo so», rispose William. Si stava mettendo il pigiama a righe che Ginny gli aveva regalato a Natale. Si strofinò un occhio e scostò il copriletto dalla sua parte. «Prova a fare un'ipotesi». Ginny si avvicinò al suo lato e sprimacciò i cuscini. «Una settimana? Due? Due? Non lo so, tu cosa pensi?» William si girò nel letto, poi mise le gambe giù e si alzò. «Dove vai?» «In cucina», rispose. «Ho sete». «Sei cattivo come Olivia». «Sì», disse lui. Erano andati a turno tre volte in camera di Olivia da quando era andata a letto. Una volta per accompagnarla in bagno, un'altra per portarle un bicchiere d'acqua, un'altra ancora per darle un bacio su un graffio immaginario sul gomito. Tutte le volte che Olivia aveva chiamato, avevano aspettato per vedere se Lillian andava dalla figlia, ma non lo aveva mai fatto. «Dio santo!» aveva esclamato Ginny la terza volta. «Dovremmo andare avanti così tutta la notte. Pensi che non la senta? O che la senta e che la ignori?» «La seconda», aveva risposto William. «Ma non mi importa». Andare nella stanza di Olivia gli ricordava di quando i suoi figli erano piccoli e del modo in cui dormivano. Steven sempre a pancia in giù, completamente abbandonato al sonno. Lillian supina, con le braccia lungo i fianchi. Rachel di lato, abbracciando questo o quell'animale di peluche. Era diventata una ragazzina prima di aver rinunciato ai suoi animali. All'università aveva portato il coniglio verde con le orecchie lunghe, ufficialmente per metterlo su una mensola sopra la cassettiera come decorazione, ma William sospettava che nei periodi in cui aveva il cuore spezzato o si sentiva solo, il coniglio entrasse nel letto. In cucina prese un bicchiere dalla credenza e lo riempì dal rubinetto. Lo beve in piedi guardandosi intorno. La cucina sembrava diversa di notte, illuminata solo dalla luce dei faretti sotto i pensili e da quella continua della luna che entrava dalla finestra. Tutte le superfici erano pulite e il tostapane scintillava. Le tracce di tutti i pasti consumati quel giorno, di tutte le persone che avevano mangiato e bevuto, erano sparite, a eccezione di un colapasta solitario appoggiato sullo scolapiatti. Lo prese e gli trovò un posto, sistemandolo in una serie di colapasta più grandi. Sentì un'ondata di affetto per Ginny, che aveva fatto tutto quanto. Aveva pulito i ripiani e aspirato le briciole dei cracker a forma di animali di Olivia con l'aspirapolvere e aveva preparato la tovaglietta delle principesse Disney per la colazione della nipote del mattino seguente. Pensò a tutte le sere e le mattine in cui Ginny lo aveva fatto per lui e i ragazzi, quando lui portava avanti la sua ditta. Si era presa cura di loro, certo, ma aveva anche nutrito l'anima e le ambizioni di suo marito. William si riempì di nuovo il bicchiere, poi ne riempì uno per Ginny e li portò con sé in camera da letto. Se ne rimase disteso per un bel po', stanco ma senza voglia di dormire, ad ascoltare i rumori della casa che scemavano intorno a lui. Si ricordò degli scricchiolii e dei gemiti che la casa dove era cresciuto produceva di notte. Si ricordò di sua madre che lo consolava quando i rumori lo spaventavano, del profumo di mela e del sapone di lei, e di come la guancia della madre fosse morbida contro la sua quando si piegava per dargli il bacio della buonanotte. E c'era qualcos'altro che aveva dimenticato da quando i suoi figli erano piccoli. Qualcosa che non aveva mai espresso chiaramente, ma che adesso avvertiva con tanta intensità da essere quasi palpabile. La pace che si prova a essere svegli in una casa dove i bambini dormono. Avete ascoltato la lettura di alcuni brani dal libro di Meg Mitchell Moore, Mirtilli a colazione. Garzanti, 320 pagine, 16,40 euro.